Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri di compleanno a due lunghi, tutti sangue, sudore e lacrime. Alton Lister, 64 primavere per lui, e al grande Tom Boswell, per lui 70 primavere. Due lunghi protagonisti sia in America che in Italia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te Paolo e nuovamente buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori dell'imprevedibile martedì del Move to Groove di oggi. Beh, il protagonista citato da Paolo, Tom Boswell, definirlo imprevedibile è un eufemismo, con questa rassegna di compleanni e poi di ispirazione nelle storie di questi atleti che si riflettano poi nelle storie di quotidianità, nell'originalità di queste storie, nel dolore di queste storie, nelle contraddizioni di questi grandi campioni, vedono in Tom Boswell un protagonista assoluto, un sliding doors, come si dice, un what if. Beh, Tom Boswell è un talento, o era un talento, e chi lo sa. Per iniziare questa monografia mi collego a una grande pellicola che è I Soliti Sospetti. Se non l'avete visto, ovviamente vi invito alla visione, un capolavoro assoluto. Ne approfitto per dare il buongiorno a Lino, che finalmente è arrivato il Mood Groove, aspettando il Mood Groove, ha scritto durante la lettura delle prime pagine, ed eccolo qui. Roger Verbal Kent è questo personaggio che è un po' così dimesso, può essere testimone per la ricerca del pericolosissimo criminale Kaiser Sosa. Chi era? Chi è Kaiser Sosa? La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste e come niente sparisce. Ecco, Tom Boswell potrebbe essere un Kaiser Sosa nella pallacanestro, ma ovviamente anche con le sue contraddizioni, perché due note, poi uno stacco musicale per quanto riguarda le caratteristiche di questo grande giocatore dotato di un'intelligenza cestistica sopraffina, movimenti senza palla intuitivi, con una capacità di coprire diverse posizioni, seppur di ruolo alla forte, quanto mai eterogeneo, una mano morbida dalla media distanza, una presenza 2,06 di muscoli reattiva sotto le plance, un difensore granitico, non un realizzatore, ma la capacità di saper portare e caricarsi sulla spalle la squadra. E infatti ha arrivato in Italia, ha portato subito due successi importanti a Cantù. Un giocatore che è stato un prospetto anche nella NBA, ma vediamo un po' com'è andata la sua storia, anche perché di Tom Boswell quello che rimane è un suo autografo su una figurina che lo rappresenta dei Boston Celtics. Poi un pochettino come Kaiser Sosa è sparito. Di Tom Boswell, del suo inizio al college University South Carolina insieme ad Alex English, ne parleremo tra poco. Intanto ascoltiamo un po' di musica, ricordando che il Mood Groove, il vostro format su una pallacanestro come non l'avete mai sentita, è ogni martedì dalle ore 8 circa. A tra poco. Mettersi al dito l'ultimo anello di metà anni 70 targato Boston Celtics del grande John Havlicek, dei Cowens, JoJo White, prima di entrare nel turbinio di decadenza della squadra a fine degli anni 70. I Celtics sono andati veramente in basso prima dell'arrivo del Salvatore, tale certo Larry Bird. Diventa un giramondo, arriva anche in Italia e penso che quelli di Cantù se lo ricordano molto bene. Qualche uno scudetto e una coppa delle coppe portata a casa col grande Tommy in squadra. Pochissimo tempo poi, una stagione. Attenzione, arriva a stagione iniziata, arriva in seguito al primo taglio tecnico della storia della pallacanestro. Allora, io oltre che la passione per la NBA a cascata ovviamente ho la passione per gli americani arrivati in Italia tra gli anni 70 e la fine degli anni 80. Quindi quando si parlava di tagli, sempre attento da Super Basket per vedere chi erano i giocatori tagliati, perché il taglio insomma non era una bella cosa e di solito era per infortunio, ok, un taglio per infortunio. In questo caso lui è il primo arrivo in seguito a un taglio tecnico, cioè l'atleta preso a inizio campionato, beh, non risulti alle altezze delle aspettative della nostra squadra, per cui ti dobbiamo tagliare. Partiamo da NCAA, University South Carolina. Lui è insieme in squadra ad Alex English, giocatore uno forse dopo George Gervin per quanto riguarda la vera pallacanestro, il più grande realizzatore che il parquet abbia mai visto, quindi stiamo parlando di un giocatore fortissimo. A USC, University South Carolina, beh, nonostante questa presenza, tra l'altro molto compatibile in settore ali, Alex English la tipica alla piccola, Tom Boswell la tipica alla forte, beh, Tom Boswell è un caratteraccio, e chi l'avrebbe mai detto? Sul campo si presenta come giocatore molto intuitivo, giocatore che difende forte, se ne ha voglia, giocatore presente sotto le planche, la capacità di muoversi senza palla, la capacità di conoscere la palla canestro in maniera assolutamente specchiata, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale. Aggiungiamo anche quel che di carismatico nei momenti importanti. Sappiamo per quanto riguarda i suoi 70 anni se è in galera, se è morto, se è ancora vivo e ovviamente si sta godendo la sua vecchiaia. Beh, sappiamo che nel 2006 un tifoso lo incrocia e chiede il suo autografo su una figurina che lo rappresenta dei Boston Celtics. Questa è una delle ultime tracce per quanto riguarda questo protagonista di oggi. Per quanto poi è il percorso da atleta da University South Carolina, il grande Tom Hinson dei Boston Celtics vince 8 anelli da giocatore, ne vince 2 da allenatore. Dice di Tom Boswell: è un giocatore forte, dobbiamo prenderlo e trasformarlo in un grande giocatore forte, e sotteso che ovviamente dobbiamo mettere un pochettino a posto questi problemi caratteriali e problemi personali che riporta l'atleta, perché la pasta, gli ingredienti sono buoni. Thank you. scelta assoluta di una franchigia importantissima, dei Boston Celtics. Ricordo a Paolo giustamente che da metà anni 70 avranno un periodo poi di down dopo aver vinto l'impossibile. Tom Henson resterà in panchina come allenatore, porterà gli ultimi due titoli di quel periodo per i Boston Celtics, Tom Boswell ne vince uno. Sinceramente è presente, è un giocatore presente nella franchigia di Boston, non sposta da matricola, ma appunto si vede perfettamente che la pasta c'è e come. Lo possiamo paragonare a un Tellis Frank, solo che Tellis Frank aveva un po' più di ordine mentale al di fuori del campo di gioco, e vi racconto perché. Boston, problemi, arriva a metterlo sul mercato. Ok, ci abbiamo provato, sei un ottimo giocatore, ma per strategie di franchigia vai sul mercato. Arriva Utah. Utah non va d'accordo con nessuno e Tom Boswell prende il vice allenatore e gli spacca la faccia con un'aggressione a pugni che non augura nessuno, visto le dimensioni del nostro protagonista, e ovviamente viene allontanato dalla franchigia, se non che dalla Lega. Dopo un allenamento lui ha preso a pugni il vice allenatore. E intanto che succede a Cantù? Cantù è la principessina di pallacanestro, si parla di Milano, di Varese, di Bologna. Bologna con due squadre, una grande tradizione che sta crescendo fra l'altro. E poi la principessa di Coppa, che inizierà questo percorso proprio con Tom Boswell. L'allenatore per me è uno dei più grandi, per me personalmente è il più grande allenatore italiano che abbiamo avuto. È Valerio Bianchini, è molto arguto, è molto intelligente, sa sia parlare ai giocatori anche in maniera forte per stimolarli, e ha una conoscenza cestistica che secondo me adesso manco immaginano, proprio se lontana anni luce. Vi ho detto di un taglio. Bianchini sceglie Terry Stotts, una matricola, il tipico bravo ragazzo dall'Oklahoma, bianco, 2'7", alla forte, stesso ruolo di Tom, grandissimo tiratore. Bianchini è un po' così, dice, sì, intanto è un ragazzo bravissimo, non crea problemi, e poi certo, tecnicamente è forte, ha una mano che è incredibile, ma abbiamo bisogno di qualcuno che sappia incidere sotto canestro se vogliamo ottenere risultati importanti. Abbiamo bisogno di qualcuno che sappia difendere. A Terry un pochettino la difesa puzza, se vogliamo. Lui sa tirare, certo, è bravo, è specchiato, è bello da vedere, però abbiamo già Antonello Riva, abbiamo Marzorati, abbiamo Innocentin, abbiamo un Bosa che sta crescendo. Insomma, noi siamo riconosciuti anche per i forti talenti italiani. Abbiamo bisogno di qualcuno che abbia più incisività, più carisma, più cattiveria. Allora, il general manager dice, ma uno ci sarebbe che adesso hanno tagliato, hanno portato via dalla NBA, ha qualche problemino personale, a sì quale, ha spaccato la faccia a un allenatore, così. Patron di Cantù decide che insomma bisogna però contattarlo questo, perché questo è veramente buono, ecco, questo Tom Boswell sì sarà matto ma è veramente buono, però accidenti, che difficoltà, dire a Terry Stotts che viene tagliato. Insomma, fanno arrivare in Italia Boswell in gran segreto, pensate, gli anni 70 e 80, per non andare a creare, però non è che insomma uno si vede dietro la panchina un nero di 2,5 che guarda, nonostante la discrezione, insomma qualche sospetto a Terry Stotts deve essere venuto. E i giornalisti? Beh, i giornalisti avevano già annusato che c'era qualcosa, c'era un cambiamento nell'aria, e appunto questo ha poi portato, pensate il paradosso, Stotts un pochettino indispettito da questo, conclude la partita con 28 punti, cioè lui viene tagliato dopo aver fatto una partita con 28 punti e la vittoria alla squadra brianzola. Carolina, tra parentesi, c'era un altro buono, tale Mike Dunleavy. Mike Dunleavy, vero? E lui è vero, come dici te, sparisce anche mentre giocava per due stagioni. Sì, sì. C'è chi dice che li avesse passati dietro alle sbarre e c'è chi dice no. Però un giocatore che ha uno strascico un po' enigmatico nella sua vita, composto, che lo rende anche più affascinante, secondo me. Di pallacanestro ne capiva, difatti quasi più di un ventennio che alleni in NBA come vice o come capo allenatore. No Paolo, stiamo parlando di atleti buoni come il pane, stiamo parlando di una di una squadra, in Italia sono team, sono squadre, non franchigie, che caspita, da lì in avanti ha vinto due volte la Coppa dei Campioni, ha vinto lo scudetto l'anno di Boswell, cioè onore al merito, mi sento di dire a Bianchini, che lui stesso dichiara è stata una scelta veramente sofferente, perché Stotts era un giocatore buonissimo e non creava problemi. Ma io ho pensato che, e infatti come dare torto al Vate, lo chiamavano così, il Vate, Valerio Bianchini, infatti. Deve vivere questi giorni in segreto, no, Boswell, per non creare disagi, spostare, già c'è la voce, arriva uno buonissimo dall'NBA e quindi bisogna parlare con Terry Stotts, bisogna preparare la squadra, bisogna, insomma, perché sta arrivando veramente chi può cambiare le sorti. Ricordo che fino allora Cantù era certo, come ho detto, la principessa di queste squadre che in Italia dominavano i campionati, però Milano, Bologna, Varese erano sempre un passettino avanti. E per non creare problemi, tra virgolette, ma ne ha creati poi altri lui, lo mettono in albergo con la moglie. La moglie ha gravissimi problemi di tossicodipendenza. L'albergo diventa un ricettacolo di pusher e nello stesso tempo Tom Boswell lo devasta, lo butta per aria. Al che il direttore dell'albergo dice: vi prego, venitelo a prendere perché non ne possiamo più. Bianchini è deciso, lo vede così in qualche allenamento, vince le remore di Aldo Allievi, firma, mette sotto contratto Tom Boswell, è deciso. Alla prima partita di allenamento, che vi spiego poi, che già iniziamo subito a capire, anche se ovviamente abbiamo già capito del personaggio. Oltretutto è perfetto, tutto è perfetto. perfetto perché il primo lungo, il centro, giocatore che amo alla follia, tale Bruce Flowers, ex Cleveland Cavalier, è il complemento esatto per una squadra che ha un reparto italiani con tantissimi punti nelle mani. Bruce Flowers è un playmaker d'area, perfetto nel gioco da post, si complementa con uno che ha movimento senza palla, almeno per il pallacanestro di allora. Ovviamente per gli appassionati di questi tempi risulta ostrogoto quello che sto dicendo, ma vi posso assicurare che era una squadra, un meccanismo ad orologeria. Dopo che ieri sera ho fatto tardi perché ho voluto rivedere, l'ultima volta ero bimbetto quando l'ho vista in diretta, ho voluto rivedere la finale di Coppa delle Coppe contro Barcellona. Veramente un meccanismo liato alla perfezione. Bruce Flowers da post per i ribaltamenti, in pendolo Tom Boswell e i tre italiani in esterna che veramente non ne sbagliavano una. Vi dico solo che per mettere ordine, Pierluigi Marzorati, più grande playmaker italiano per quanto riguarda la parte di punti nelle mani, Nembo Kid, Antonello Riva, insomma. Boswell non parla una parola di italiano, ovviamente, no? Allora decidono. Insomma, facciamo una cosa. Chiediamo ai colleghi di Venezia, della Reier, se sono disponibili ad accettare. Ci spostiamo noi da Cantù, ovviamente, se possiamo fare un'amichevole. Un'amichevole unicamente per far conoscere a Tom i nostri schemi, i nostri giochi, metterli in pratica assieme. Chi c'era a Venezia? Magari mi risponde Lino, chi giocava da straniero allora a Venezia, da americano. Io tale Spencer Haywood, fenomeno già anche nell'NBA, e appena si ritrovano, e ciao Spencer, ma ciao Tom, che bello, ci rivediamo, dai che facciamo questa amichevole, più o meno siamo anche in ruolo, ci dobbiamo marcare così non ci facciamo male. Ma scusa una cosa Spencer, una domandina, no? Tu hai fatto il percorso di arrivare in Italia, ma dimmi una cosa, tu sei qui a contratto e quanto prendi? Punto di domanda. Esperienza personale, domanda che ai colleghi non bisogna mai fare. Ma qui stiamo parlando di Tom Boswell. E con Spencer Haywood dice, ma dai Tom, prenderemo più o meno uguale. No, no, ma dimmi quanto. Insomma, Spencer Haywood prende sensibilmente più denaro rispetto al contratto di Tom Boswell. Tom Boswell smette di giocare, non ne vuol sapere, entra in sciopero, non gioca, non scende in campo. Let me do my strong full time, mama. All right now, watch me. vuole un adeguamento del contratto a quello che prende Spencer Haywood. Beh, dimostra subito poi una volta trovato l'accordo, perché il GM Morbelli supera però tenacemente la prima crisi diplomatica e Tom esordisce in campionato mostrando tutto il suo talento, come ho detto, difensore clamoroso quando ne aveva voglia. Cioè lui difendeva solo quando doveva difendere su giocatori più, diciamo così, giocatori forti. Ricordo nei playoff che violentò John Gianelli, cioè non c'è più storia, perché dicevano che John Gianelli era così buono, lo umiliò. La squadra decolla. Lui si allena con gli juniores. Pensate, lui si allena con la squadra juniores di Cantù, perché altrimenti tutti gli allenamenti finivano in rissa. Nel bel mezzo di un allenamento si presenta senza gli indumenti di gioco e con una torta, con i pasticcini. E che bello, è diventato sano. No. Vi saluto, ho deciso di tornare negli Stati Uniti d'America, dove sono arrivate delle proposte ben importanti. Quindi ciao a tutti. No, non puoi, Tom, guarda che non puoi, perché finché non hai finito la stagione qui non ti prendono la NBA, non puoi tornare. Questo prende il GM e il presidente per i quattro stracci per il collo, li porta in ufficio, allenamento che Bianchini chiede di non palleggiare, perché dobbiamo stare attenti, se sentiamo delle urla mi raccomando corriamo tutti su, perché li ammazza. Bianchini conduce questo allenamento di richiamo di atletica senza la palla per evitare rumori che potessero coprire le urla, conduce tutto l'allenamento con l'orecchio appoggiato all'ufficio dove Boswell è insieme ai due dirigenti. Trovano l'accordo, si arriva in Coppa delle Coppe, la partita che ho rivisto ieri. E allora, altra categoria lui, era di uno svogliato, lui chiude con 30 punti, ma veramente era di uno svogliato. Cantù vince 86-82 la sua quarta Coppa delle Coppe, grazie chiaramente a questo grande atleta. Arriverà poi a vincere lo scudetto e inizierà una dinastia in Europa, la stessa Cantù non indifferente. Prima della pubblicità, nota particolare: a ogni momento così, una fischiata sbagliata dell'arbitro dubbia, un avversario che alzava troppo i gomiti, Marzorati correva da Boswell e dire: "Ehi Tom, è tutto a posto, tranquillo, cioè non devi perdere la testa, vai tranquillo", abbracciava, 5 una pacca nel sedere, ehi stai tranquillo. Ecco, la partita è andata così. Ovviamente terminato il contratto, che abbiamo vinto, però questo è veramente ingestibile. E poi arrivano delle offerte, l'allenatore massacrato negli Utah Jazz, ricordate, non è più nella franchigia dello Utah, e quindi c'è un'offerta per Tom Boswell negli Utah Jazz e vedremo come ritornerà negli Stati Uniti d'America. A tra poco. Oh, siete in diretta e come ritorno anche quello del nostro protagonista, arriva il ritorno negli Stati Uniti d'America dopo questa stagione sicuramente vincente, ma oppala, mamma mia, un'altra stagione così non la reggiamo, dicono da casa. Americani importantissimi, ne cito così a menadito perché secondo me c'è stata una dinastia Cantù di un'importanza. Parliamo di Wallace Bryant, che lo conosciamo anche a Bologna. Parliamo di Jimone Brewer, il grande difensore probabilmente mai arrivato. CJ Kupec, un tiratore eccezionale. Ma fino ai giorni nostri, almeno ai giorni nostri, ai giorni miei, perché adesso chissà. Parlo di Pace Manion, di un grandissimo bianco, Jeff Turner dai New Jersey Nets. Ma restiamo all'inizio degli anni Ottanta. Questo ritorna negli Stati Uniti d'America, va nel suo appartamento, appunto, che aveva lasciato, ricordate, Utah. Lo richiama dopo questa, arriva l'offerta, va nel suo appartamento abbandonato per più di un anno. La padrona di casa dice: guardi che lei è, sì ok, iniziamo pure la stagione, ma lei è più di un anno di affitto, mi ha fermato l'appartamento, lei mi deve più di un anno di affitto. Sapete qual è stata la risposta di Tom Boswell? Ha estratto un revolver, l'ha buttata contro il muro e gliel'ha puntato alla testa. Questa, dalle cronache, sembra l'accusa appunto a Tom Boswell per il suo periodo di detenzione, per aggressione e percosse, aggressione a mano armata. Farà 2 anni di carcere e pensate, dopo proverà anche, ma non per quanto riguarda la pallacanestro, la sua carriera non se ne saprà più nulla. Pensate un po', questo talento, questo giocatore fortissimo, quei Jazz prima dell'era Stockton Malone, sì. Parecchia di talento, come gente come Adrian Dantley, Ricky Green, Darrell Griffith, Mark Eaton, insomma le sue incursioni in playoff le faceva ugualmente. Vabbè, un 4 serviva, se ci pensi, Ricky Green a portar palla, Darrell Griffith, grande atleta come guardia tiratrice, Adrian Dantley, punti nelle mani, sotto una sicurezza come Mark Eaton, prenderanno Track Robinson a fine carriera, mi pare che il 4 fu un giocatore di ripiego, ma l'idea di un Tom Boswell in quel contesto lì, mica male, il numero 4. Scusa Paolo, Thurl Bailey, numero 41, sì. Che dico male, arrivò anche in Italia a fine carriera, comunque gran giocatore Thurl Bailey, il più grande giocatore a ricevere in taglio secondo me che abbia mai visto. Track Robinson era prima negli Utah Jazz. Gran rimbalzista. Quel discorso della sliding doors, pensa se è lui con la testa di ovviamente adesso non si sa niente, mi pare, di questa figura, per quanto noi auguriamo a Tom Boswell una redenzione, che stia bene, ci mancherebbe. Che legga libri, che vada al parco e non per cercare degli stupefacenti, ma motivo di relax, che stia bene, che abbia una vita serena, ci mancherebbe. Fine carriera andò proprio a giocare anche lui a Cantù. Sì, esatto, certo. Beh, vedi, anche queste sono poi degli aspetti che ritornano nel famoso discorso delle sliding doors. Sono fine carriera, quindi si parla già di anni 90. Io sono meno preparato sul recente, per me sono già recenti gli anni 90, figuratevi un po'. Ecco, allora, il Move to Groove, lo ribadisco, è con protagonisti che vanno dagli inizi degli anni 70 al termine degli anni 80, quando parlo di certe realtà cestistiche, di storie, di biografie, di monografie, di parallelismi con la quotidianità e di cambiamento, no? Perché arriva poi sempre ma te non conosci John Huber-Muller, che ha 30 punti nelle mani, ha fatto 8 su 19 da 3 punti. No, e non lo voglio neanche conoscere. Saluto e gli auguri al nostro amico Alton Lister, che non abbiamo dimenticato. Parleremo di lui e di alcuni atleti che hanno a che fare con determinate peculiarità, magari nella prossima puntata al Mood Groove ogni martedì. Ringraziandovi per l'attenzione, questo Breakfast Club volge al termine. A breve con l'EDP Enciclopedico Liberi Dentro, a seguire poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Mi raccomando, 10.30, 12.30, il vinile quotidiano da non perdere con Andrea Gozza. Appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina, Libri a Colazione sui 103.1. Ringraziandovi per l'attenzione, un caloroso abbraccio per questo imprevedibile martedì che prosegua nel migliore dei modi. Grazie a Paolo Onofri, grazie alle super mattiniere e ai super mattinieri dei 103.1. Dal vostro William Piana, ciao a tutte, ciao a tutti, a domani, ore 7, Breakfast Club, ciao!